realidad no la que tienes preparada. Un voto para las urnas, para mí mismo sola. Una mierda para los nazis y otra para el Estado. Levántate, ponte en pie, estamos muy fuerte, no hay nadie. Lo único que vino es una vida en ti por toda cara. Al lado de los que sufren, la gente explotada. Y el día que tú muera, que sea una nueva barricada. No queremos hacer sangre y volver a abandonar nuestras preocupaciones. Instituto de Pascón. Nada nos ha sido regalado. ¿Qué conciencia de somos? ¿Qué no nos iremos adelante? Todo lo que hacemos es justo, no me merece su vida moda. Miren qué persona. Recorre tu espalda, un nudo que ahoga tu seca garganta, un puño con ¿Existen los skinhead buenos? We'll be right back. es mi mota y es quien me va a ver. One, two, three, go. I've got an ego, it won't let me go. What am I gonna do? A, B, C, D, paranoia's killing me. I'm dying on me, aching feet, what a way to go. Roll up, roll up, people always stroll up. So why don't you grow up? No, thank you. Big cats, small cats, some cats are fat cats. Those cats are bad cats, what we gonna do? There's an awful lot of people in the world today. There's an awful lot of trouble on the streets these days. And it doesn't seem to matter what you do or say. If a change is gonna happen, gotta help it on its way. A change's gotta come before too long, I know. The peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. You don't trust me and I don't trust you. I bet you wish you did and I know I do. Why have you got secrets? Cause I know you have. If you've got something to hide then it must be bad. A change has gotta come before too long, I know. Peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. Can do. Billettkontrolle. Jawohl, danke schön, merci vielmal. Jawohl, merci, merci. Jawohl, danke vielmal. Aha, das Billett, das gibt der Bursch. Es ist ein klares Wetter, worüber man keinen spricht. Ich fahre mit dem Tram immer auf Platz, damit mich keiner erwischt. Gesichtskontrolle. Ich checke genau, die blaue Flagge der Sau. Kontrolle! Unfair! Kontrolle! Unfair! It's all- We'll be right back. l'egoismo è il suo impunto di dire. La crisi è la sua fame, la voglia di lottare. Non puoi più rimandare, non stare a guardare o lasciare il tuo promesso. Ribelle è solo questo, in cerca di una strategia. La rabbia e poi la nostalgia è una vita calpestata. Io non ce l'ho fatti mai. In cerca di una strategia. La rabbia e poi la nostalgia è una vita calpestata. Io non ce l'ho fatti mai. Scegli la tua battaglia, non c'è più tempo, devi affrontarla per forgiare la coscienza. Il male dell'indifferenza, figli di esproprie perquisizioni, del precariato e delle esplosioni. Ribelle è solo questo, oppure resta un servo. In cerca di una strategia, la rabbia e poi la nostalgia è una vita calpestata. Io non ce l'ho fatti mai. In cerca di una strategia, la rabbia e poi la nostalgia è una vita calpestata. Io non ce l'ho fatti mai.